Effetto Mondo. Ed eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno. Benvenuta. Allora, molto interessante il giornale di oggi. Molto interessante. Bene, questa è una bella premessa. Allora, cominciamo, mi dicevi, con l'attivismo francese in Africa. Molto interessante sui giornali francesi. Sì, un po' facendo seguito alla decisione, anche contestata da alcune parti, sì, del Parlamento, di mandare un nuovo contingente più forte francese in Sahel, il presidente Macron, e ne parlano tutti i quotidiani francesi, ha organizzato questo vertice a Pau con il G5 dell'Africa, di cui fanno parte in particolare paesi come Burkina Faso, Togo e Togo, che sono paesi dove, chiunque ci sia stato lo sa, la lingua ufficiale, diciamo, è ancora il francese, un po' l'inglese non, perché erano storicamente delle colonie francesi. L'impegno di Macron, oltre ad aver ringraziato i capi di governo per il loro impegno nella lotta all'ISIS, è una promessa di aiuti naturalmente, ma anche l'idea che questo contingente serva soprattutto ad addestrare anche le forze di questi paesi per continuare a combattere l'ISIS. Come abbiamo sentito da tanti commentatori, si è tutti preoccupati che nel retropalco di questi grandi scenari di guerra in Libia e in Iran, l'ISIS stia ricompattando le sue... Vogliamo arricchire con l'intervento, con le parole di Macron? Sentirete la traduzione in inglese, perché segnalo a tutti che France 24 è un canale all news che, a differenza di Rai News, è interamente tradotto in inglese, ed è altro che un inglese di quelli che parlano i francesi, che non si capisce se sia francese o inglese. È fatto benissimo. E questo video, per essere il più internazionale possibile, l'originale naturalmente Macron parlava in francese, ma è stato egregiamente tradotto in inglese. Sentiamo alcune parole. To achieve this objective, we are changing the method. We are putting in place a military coalition. Ecco, dice, appunto, forse ripeto, Macron parlava in francese, ma per France 24, il suo pubblico internazionale, vengono tradotte le parole francesi, in particolare di questo passaggio dove Macron dice: è vero, vi stiamo inviando dei soldati, ma è proprio perché sia una coalizione fatta dai nostri soldati che hanno un certo tipo di addestramento e formazione per collaborare con i vostri rispettivi eserciti. Quindi, insomma, secondo me è un bel colpo diplomatico, perché spegnere i focolai di ISIS, che purtroppo sono in tutta l'Africa, è comunque un modo per affrontare la questione del terrorismo internazionale di matrice islamica. Come dicevi tu prima, Giulia, sembra quasi che Macron, dando per persa la Libia, Francia e Turchia, scusami, Russia e Turchia protagoniste, dica: beh, insomma, concentriamoci dove la Francia può, certo, dire la sua. E dove ho già una rete, insomma, diplomatica. Devo tossire, scusa. Invece, come potete immaginare, i giornali del Regno Unito, esattamente come ieri, anzi oggi persino il Guardian lo mette in prima pagina, parlano di questo statement storico fatto ieri dalla regina. Io l'ho trovato bellissimo, è proprio la nonna che dice: ok, se ho capito che per la tua felicità, Harry, nipote preferito, tu hai bisogno di questo passo indietro, e va bene, mi dispiace, però va bene. Quindi... Però vai, ma non ti pago, com'è? Un po', una nonna un po' ticchia, un po' cattiva. Quella questione com'è? Ancora un po', tant'è che per esempio il Daily Star, sì, che è un tabloid popolarissimo, ogni giorno propone un punto di riflessione, e oggi il Thought of the Day è esattamente questo, cioè i 2,4 milioni di sterline che sono serviti per ristrutturare la casa di Harry e Meghan ce li ridaranno a noi contribuenti. Però vi segnalo anche, quando leggete sui giornali italiani, il Sun ha detto questo, il Daily Star ha detto questo, il Daily Mirror ha detto questo. Cosa? Vi segnalo la prima pagina del Daily Star di oggi, che c'è la povera regina Sad Queen tells Harry, quindi una triste regina, sì, dice a Harry: you're free to naff off, che è un modo un po' gergale per dire vattene pure. Ma la notizia principale è intitolata Man Poo, che è un gioco di parole, perché richiama al Manchester, oltre naturalmente a voler dire uomo, perché un giocatore del Manchester, per la precisione Marcus Rashford, ha deciso di lasciare il suo marchio di carta igienica. Siccome, cioè, questa è la copertina, esatto, è la prima pagina, e c'è un bel rotolo di carta igienica in piccolo il giocatore, e Poo vuol dire anche quella cosa marrone, che è anche un bello spot per questo, esatto, perciò naturalmente fa ridere, no, questa roba. Hanno trovato anche il gioco di parole, però questo è il livello delle prime pagine. Poi ci sono anche due signorine con tette in vista, quindi questo è il livello dei tabloid. Perciò, se vi citano il Times o il Guardian o al limite il Daily Telegraph, ok, se vi citano Daily Mirror, Daily Star e Sun, è quello della carta igienica, ecco, insomma, per capirsi, va bene. Poi No, però insomma, parlando anche di naturalmente il Guardian, per esempio, ha un'apertura con un nuovo record delle temperature degli oceani che riporta al centro la discussione su che cosa stiamo facendo al nostro pianeta, che lo sapete per la maggior parte è fatto di acqua. E questo mi porta in Australia, perché la maggior parte dei giornali australiani, West Australian, The Australian, danno conto di questo mega concerto che si sta organizzando per il 16 di febbraio, lo chiamano Ballads for the Bushfires, quindi per i fuochi nel bush, artisti di fama internazionale non necessariamente australiani, andranno appunto, parteciperanno a questo concerto, una sorta di live aid, o, insomma, per raccogliere fondi. Continuano le proteste contro il premier, se volete ne sentiamo un collage, sì, che ha fatto una televisione. Queste sono le critiche al premier. Al premier Morrison, sì, che tra l'altro Vox lo ricordiamo, era stato eletto con una percentuale altissima, quindi cominciava molto bene il suo mandato come premier australiano e sta proseguendo un po' meno bene. No, you're an idiot, mate. Stand down now. Ecco, cosa dicono? Le dice, questa era la voce di un pompiere donna, step down now, cioè adesso dai subito le dimissioni. Lui continua a dire che si cercherà di capire perché alcuni interventi sono arrivati così tardi, ma resta il fatto per esempio che lui la sua vacanza nelle Hawaii, durata più di 2 settimane, semplicemente l'ha accorciata di 2 giorni in piena emergenza, e di questo viene ancora accusato. Poi c'è la cronaca, per esempio a Broome, questo piccolo paese nell'Australia dell'Ovest, appunto, è bruciata una scuola che per loro aveva più di 100 anni, e in Australia sono età importanti, perché è un paese molto giovane, naturalmente questa scuola elementare storica è andata in fiamme insieme a tantissime altre abitazioni. Giulia, ieri avevi annunciato che volevi parlarci del caucus dell'Iowa, ho detto bene, d'Iowa. Però non so se abbiamo tempo, no, non abbiamo tempo. Però l'unica notizia che possiamo dare su tutti i giornali americani che adesso sono come i piccoli indiani, ne è caduto un altro, sono rimasti in 5 perché Cory Booker, l'afroamericano, si è ritirato dalle primarie dei democratici. Notizie prossimamente qua, effetto mondo dentro effetto giorno. Grazie Giulia Crivelli, è tutto anche per questa puntata. Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, da Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento con GR24.